Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Armenia con Sonia Raule. When I look to leave her, I always stagger back again. Milano, Via del Lauro, in un palazzo sontuoso dietro alla Scala. È qui che oggi incontrerò la mia compagna di viaggio che dal centro del capoluogo lombardo mi porterà nel cuore del Caucaso e per la precisione in Armenia. Nome Repubblica di Armenia. Capitale Yerevan. Confini. L'Armenia confina con la Turchia a ovest, la Georgia a nord, l'Azerbaigian a est e l'Iran e l'exclave azera del Nakhchivan a sud. È quindi uno stato senza sbocco sul mare. Abitanti circa 3 milioni. Clima. Il clima è di tipo continentale e dato che le catene montuose formano le influenze del Mar Mediterraneo e del Mar Nero, comprende estati calde e inverni freddi. Forma di governo, repubblica semipresidenziale. Lingua. Nel paese si parla la lingua armena nelle varianti dell'armeno orientale, diffuso anche nella comunità armena dell'Iran. Nel paese sono diffuse diverse minoranze linguistiche e gran parte della popolazione armena parla come seconda lingua il russo. Documenti. Per entrare in Armenia occorrono sia il passaporto che un visto valido. Moneta, dram. Un euro uguale 529,37 dram. Religione. L'Armenia è un paese a maggioranza cristiana. La chiesa armena vanta una tradizione antichissima che risale al III secolo d.C. L'Armenia è considerata la prima nazione al mondo ad avere adottato il cristianesimo come religione ufficiale. Fuso orario. Più 4 ore rispetto al meridiano di Greenwich, più 3 rispetto all'Italia. Prefisso internazionale, più 734. Quando Sonia Raule, la mia accompagnatrice, mi ha detto che mi avrebbe voluto parlare dell'Armenia, ricordo di aver avuto una sensazione strana, un po' come se avessi riesumato un nome e di conseguenza un luogo perso nel tempo. Motivo in più per seguirla alla sua scoperta, mi sono detta. Arrivo quindi all'appuntamento per l'intervista carica di aspettative, forse più del solito. Salgo con l'ascensore direttamente nel suo splendido soggiorno dai colori chiari e lei mi accoglie con una pashmina sulle spalle e tanta gentilezza che mi sento un'intrusa quando le chiedo se posso cercare una presa di corrente dove attaccare il mio registratore. A venirci in soccorso è Teresa, una signora dai toni pacati come il resto dell'atmosfera, che mi mostra dove sistemarmi per avere tutto ciò di cui ho bisogno. E così, dopo aver schiacciato il tasto REC, parto con Sonia. Il mio viaggio in Armenia nasce dal desiderio di conoscere meglio questo paese perché ho scritto un libro che ha come protagoniste due donne e una di queste due donne è armena. È un libro che ho scritto insieme ad un amico che è greco-armeno e per la prima volta nella sua vita andava in Armenia. Abbiamo fatto questo viaggio insieme. Si può dire che quindi ho visto l'Armenia attraverso gli occhi emozionati di questa persona che la conosceva come terra dei suoi antenati ma che non aveva mai visto. Sonia mi sta portando con sé e Vasken Berberian, autore con lei del libro Come sabbia nel vento, in Armenia. L'idea del viaggio è nata proprio per supportare con esperienze dirette la descrizione dei posti dove la protagonista del loro romanzo si muove. Quando siamo partiti avevamo già in mente il romanzo, avevamo già fatto la prima stesura della scaletta, chiamiamola così. E siamo andati anche con la curiosità di trovare delle location, di vedere i luoghi dove si svolgevano alcune parti del romanzo, di incontrare la gente, di raccogliere delle testimonianze. Devo dire che questo viaggio l'abbiamo affrontato non come dei turisti, ma stando insieme stando insieme alle persone che tra l'altro sono ospitali, squisite, generose, sono delle persone assolutamente straordinarie. Mentre lei mi parla, cerco di ritrovare in qualche angolo della mia mente l'origine di quella strana sensazione avuta all'inizio, quando mi ha detto che mi avrebbe portato in Armenia. Per ora è tutto molto indistinto. Proseguo allora indirizzata dalle suggestioni di Sonia. Siamo atterrati a Yerevan di notte, perché quando siamo andati noi, non so se sono cambiate le cose, ma i voli per l'Armenia dall'Italia partono di notte, siamo arrivati all'alba alle 5 del mattino, le luci erano ancora molto, molto basse, credo che per ragione di risparmio energetico. E Yerevan, devo dire che ci ha veramente impressionato, perché è una città che ha una storia assolutamente straordinaria alle spalle, perché è una città molto antica, era il crocevia delle carovane che passavano dall'Asia all'India, ma è rimasto veramente molto poco di questa cultura. Ecco qual era la reminiscenza. Armenia, ponte tra i grandi imperi d'Oriente e quello d'Occidente. Armenia, snodo commerciale importante, attraversata nei millenni dai viandanti sulla Via della Seta. Tra questi anche Marco Polo, che ne parla proprio nel Milione. Sonia continua la sua descrizione della storia moderna di questo paese. Certo, ci sono i musei con i manoscritti antichi, ci sono testimonianze della civiltà antica del paese. Ma la città è stata distrutta, credo che sia stata distrutta due volte. La prima volta all'inizio degli anni 20, quando l'Armenia diventa russa e diventa una delle repubbliche sovietiche, e Yerevan ne è la capitale, e a questo punto i russi arrivano con la loro architettura molto, molto grossolana e soprattutto con le loro fabbriche che invadono la città. La cosa che impressiona adesso, che l'Armenia ha ottenuto l'indipendenza, che queste fabbriche sono come dei pachidermi abbandonati. Gli armeni hanno combattuto molto per l'indipendenza dalla Russia, si sono sentiti a lungo un popolo schiacciato, soffocato, che non potevano parlare la loro lingua perché dovevano parlare il sovietico, non potevano praticare la loro religione perché era stata bandita, le chiese erano state chiuse, hanno veramente combattuto perché l'Armenia tornasse ad essere un paese libero. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Armenia con Sonia Raule. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sonia Raule mi ha portato in Armenia. Un posto che fin dalla prima volta che me l'ha nominato ho sentito di averne avuto traccia nella mia memoria. Passo dopo passo ho capito di cosa si trattasse. Anche Marco Polo la attraversa nel suo viaggio, perché da millenni è uno snodo importantissimo sulla Via della Seta. E mentre io cerco di andare indietro nel tempo, almeno con la mente, alla ricerca di storie di antichi viaggiatori, Sonia mi riporta alla storia recente, come quella della sottomissione russa. Una delle tante per questo paese, dalla quale gli armeni si sono affrancati. Certo, non avevano calcolato, non avevano preso in considerazione che la Russia era anche era l'unica fonte di lavoro che avessero, per cui quando se ne sono andati i russi hanno sbaraccato le loro fabbriche e hanno lasciato gli armeni senza lavoro. Per cui tutti i ragazzi che avevano studiato all'università si sono trovati senza nulla da fare, senza una prospettiva. Contemporaneamente l'Armenia è entrata in guerra con l'Azerbaigian e a quel punto si sono interrotti i contatti, quindi non arrivavano nemmeno più i fornimenti di petrolio, quindi si sono trovati senza cibo, senza nulla per scaldare le case, e per circa 4 anni hanno vissuto in una situazione di povertà assoluta, senza luce, senza acqua calda, senza cibo. Del resto, situata all'incrocio tra Oriente e Occidente, l'Armenia è sempre stata contesa dagli imperi confinanti. Turchi, Selgiuchi, Tartari Mongoli, Impero Ottomano, Persiani, Impero Russo, tutti hanno sempre cercato di sottomettere l'Armenia. Oggi è un paese di circa 30.000 km quadrati e non è che una minima parte dell'antico regno armeno di Cilicia, quello di cui parla anche Marco Polo, esteso per oltre 300.000 km quadrati. La sua posizione geografica ne ha determinato il suo destino, da sempre triste e doloroso. Infatti è detta il paese delle pietre urlanti. E come prima, mentre io sono assorta nei miei ricordi sulla storia dei secoli scorsi, Sonia mi riporta all'oggi. Quindi è una terra e una popolazione che è stata devastata dalla povertà, dalla fame, da un terremoto, quello dell'88, che ha distrutto tante città e tanti villaggi. Anche se non è stato un terremoto particolarmente violento, ma le città che ha distrutto erano tutte città costruite dai sovietici, erano enormi palazzoni di 15-20 piani costruiti con l'argilla che sono crollati come un domino. E il nostro romanzo, Come sabbia nel vento, inizia proprio in quell'anno, nel 1988, con il terremoto in Armenia. E durante questo viaggio abbiamo fatto i sopralluoghi, siamo stati a Spitak, l'epicentro di questo terremoto, la città più colpita. Oltre alla follia degli uomini, ci si mette pure la follia della natura. Sembra davvero un destino infausto quello dell'Armenia, sempre alla ricerca di un po' di sollievo dalla sua tragica storia. Sonia è sempre più determinata nel portarmi in giro per le bellezze di questo paese, attraversato da guerre, sottomissioni, religione e cultura. Poi abbiamo intrapreso un viaggio per raggiungere il Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh è una piccola regione dell'Armenia che Stalin, quando ridisegnò i confini delle repubbliche, quelle che divennero le repubbliche sovietiche, inglobò nell'Azerbaigian, quindi una terra cristiana inglobata in un territorio musulmano. E gli armeni hanno combattuto a lungo, i fedain hanno combattuto a lungo per riprendersi indietro il controllo di questo territorio. Hanno vissuto per anni nascosti tra i boschi, cercando di proteggersi dagli attacchi degli azeri. E uno di questi fedain è anche uno dei protagonisti del nostro libro, per cui quando siamo arrivati nel Nagorno-Karabakh ne abbiamo ascoltati tanti, li abbiamo incontrati, abbiamo raccolto le loro storie, abbiamo poi cercato di portare nel libro le testimonianze di vita di questi ragazzi che erano disposti a mettere tutto a repentaglio, la loro vita stessa, per lottare per la loro patria. Eh sì, l'Armenia è un'enclave cristiana nel cuore del Caucaso. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. È qui che nasce e diventa religione di Stato, nel 301 d.C., il cristianesimo apostolico, quasi 80 anni prima dell'impero romano. Eccola un'altra reminiscenza. E appena mi perdo nei meandri della storia, Sonia mi viene a riprendere. Il viaggio è stato a suo modo molto affascinante, perché il nostro romanzo è ambientato d'inverno, in quel periodo di cui dicevamo prima, un periodo difficile, di buio, di mancanza di cibo, di mancanza di riscaldamento, perché abbiamo deciso che anche noi dovevamo vedere l'Armenia in quel contesto. Infatti siamo partiti il 15 dicembre, abbiamo affittato una macchina con un autista che ci doveva portare nel Nagorno-Karabakh. Per arrivare nel Nagorno-Karabakh bisogna fare il passaggio della Chin e attraversare una catena montagnosa. Le strade erano ghiacciate, le montagne piene di neve, era un paesaggio assolutamente surreale, a suo modo bellissimo. Più di una volta sono stata assalita dal panico, chiedendomi: ma Dio mio, che cosa ci faccio qua a 2500 metri sulle strade ghiacciate in un territorio di cui nessuno conosce l'esistenza. E poi dopo circa 8-10 ore di macchina siamo arrivati nel Nagorno-Karabakh, a Stepanakert. Il rigido inverno armeno mi ha riportata alla realtà. Mi viene in mente una frase del suo libro: quella terra aspra e asciutta come i lineamenti dei suoi abitanti, il luogo dei monasteri millenari, costruiti su cime inaccessibili, arroccati come guardiani silenziosi a protezione della cristianità. Adesso è Sonia a rimandarmi indietro nel tempo. Il paesaggio che abbiamo attraversato era straordinario, l'abbiamo anche descritto nel libro. Boschi, valli, picchi e poi soprattutto questo territorio che è disseminato di chiese e monasteri, perché l'Armenia ha una tradizione antichissima, è il primo paese che ha dichiarato il suo essere cattolico nel III secolo d.C., per cui il territorio è disseminato di questi monasteri, cattedrali e cattedrali medievali che sono state costruite tra il 300 e il 1200. E sono spesso arrampicate sul cucuzzolo di una montagna, sono ricavate dalla roccia, sono a picco su una gola profonda, per cui e hanno poi tutte una loro storia molto, molto affascinante. Quella che forse colpisce di più è quella di Gegard, dove ancora i pastori portano galline, animali, pecore, maiali per essere sacrificati. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Armenia con Sonia Raule. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono arrivata in compagnia di Sonia Raule in una delle antiche tappe sulla Via della Seta, l'Armenia. Detta anche il paese delle pietre urlanti, per via della sua storia da sempre costellata di tragiche guerre. Ma oltre a queste tracce indelebili del suo passato, che si ripercuotono sul carattere degli armeni, oltremodo ospitali, visto il numero infinito di stranieri che si sono avvicendati qui, è la natura una delle attrattive più grandi. Sicuramente è un viaggio ideale per chi ama la natura, è un percorso fuori dalle mete turistiche perché ancora non sono molti i turisti che si avventurano in Armenia e quindi è un paese tutto da scoprire. Come dicevamo prima, la sua natura rigogliosa, i suoi monasteri, le sue cattedrali medievali, i laghi, il lago di Sevan è un lago bellissimo dove si possono fare delle passeggiate, dove si possono fare delle passeggiate in bicicletta. Quindi è un viaggio molto molto vicino, molto vicino alla natura. Una meta turistica quindi poco conosciuta, che offre però al viaggiatore panorami incantevoli. Ma il viaggiatore deve stare attento a una cosa. Chi parte per l'Armenia deve tenere presente che in Armenia non parla quasi nessuno l'inglese e devo dire che un giorno mi sono veramente spaventata perché io ero a Yerevan e dormivo in albergo mentre Vasken era ospite di sua cugina e eravamo rimasti d'accordo che l'avrei raggiunto al mattino. Avevo scritto l'indirizzo della casa della cucina di Vasken su un biglietto, l'ho fatto vedere al tassista e il tassista si è avventurato tra le strade della città. Però sapevo che era molto vicino questa abitazione, dopo 20 minuti capisco che forse siamo fuori strada. E lì mi sono sentita veramente lost in translation, perché non sapevo come comunicare, non c'era nessuno a cui potevo chiedere, lui sicuramente non aveva capito dove era la strada, mi sono sentita veramente disperata. Poi alla fine sono riuscita a rintracciare Vasken sul telefonino, a farlo comunicare con il tassista, faticosamente, perché gli armeni che vivono fuori dall'Armenia parlano la lingua dei nonni, dei genitori, che è abbastanza diversa da quella che si parla attualmente in Armenia, che zeppa di termini russi, è diventata molto meno dolce ma più gutturale. E comunque a fatica poi ho ripreso la strada e sono arrivata a destinazione. Quindi bisogna fare molta attenzione alla lingua. È capitato a tutti di doversi muovere a gesti in un paese straniero. Se posso dare un consiglio io, oltre a quelli di Sonia, non fatevi mai mancare il dizionario visivo, un vocabolario si può dire universale, che riporta fotografie di quasi ogni cosa o situazione, niente parole, solo immagini. Così basterà indicare con un dito cosa si vuole per farsi comprendere a ogni latitudine. Certo, nel caso di un tassista privo di senso dell'orientamento, non si può fare molto. Perdersi per le strade dell'Armenia. Sono cose che possono succedere visto che qui quasi nessuno parla inglese. Meno male che la tecnologia ci è venuta in soccorso e così io e Sonia Raule abbiamo raggiunto Vasken Barbarian, l'autore con Sonia del libro Come sabbia nel vento, ambientato in questa terra. Arrivati a metà del viaggio, mi viene sempre una certa fame e anche questa volta non manco di farlo presente. Sonia non si scompone e comincia così a introdurmi a una delle leccornie del paese. Il cibo tipico che si trova in Armenia è il lavash. È un pane assolutamente delizioso che si prepara con degli aromi, con delle erbe profumate oppure con il miele. Si mescola la farina con l'acqua, si fanno delle piccole pagnotte e poi si cuociono nel tonir, che è un forno scavato nel terreno. E le donne che cucinano questo pane buttano sulla parete incandescente del forno questa palla di pasta e poi la raccolgono un attimo prima che caschi sul fondo del forno, ed è assolutamente delizioso. Tra l'altro la leggenda vuole che per buona fortuna il fuoco che scalda il tonir non dovrebbe essere mai spento. Un fuoco che non dovrebbe essere mai spento. Mi parte di nuovo la mente alla ricerca di storie al riguardo, qualcosa di lontano, di antico. Stavolta però, a tenermi coi piedi per terra, ancorata all'oggi, c'è la voglia di sedermi a un tavolo per mangiare, a patto che il cibo comprenda questo pane cotto nel tonir. Dove lo possiamo trovare? Chiedo affamata alla mia accompagnatrice. Beh, l'ho visto nelle case, l'ho visto in tutte le case in campagna, l'ho trovato. Il tonir è veramente un piatto. Lungo il percorso che abbiamo fatto per arrivare nel Gorno-Karabakh, sia per andare che per tornare indietro, che ci ha tenuto in viaggio un paio di giorni, ci siamo fermati spesso a mangiare in piccoli ristoranti, una parola grossa, diciamo piccoli rifugi senza riscaldamento, tanto per farci entrare dentro l'atmosfera del libro. Mangiavamo con la giacca a vento, con i guanti e con il cappello, e ci portavano. La cosa piacevole era quando ci arrivava a tavola questo pane caldo accompagnato da verdure. Sei molto povero, per cui anche il cibo, cioè questo lavash che è buonissimo, le verdure, i formaggi freschi, i formaggi di capra, di pecora, riso, montone, agnello. Poi l'Armenia non ha sbocchi sul mare, quindi si può trovare sul lago Sevan del pesce di fiume. Benissimo, allora accomodiamoci in una di queste case e godiamo dell'ospitalità proverbiale di questo popolo. Lavash con verdure e formaggio di capra. Il ristoro ideale prima di proseguire il viaggio. Aio, voce nel cagliazzo. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Armenia con Sonia Raule. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Ho appena finito di mangiare dell'ottimo lavash, il pane cotto in un forno particolare chiamato tonir, che la leggenda vuole non venga mai spento. Sono con Sonia Raule, in Armenia, la terra dove ha ambientato il suo romanzo Come sabbia nel vento. La sua ricerca, che poi è diventata la mia, visto che sono partita con lei, è quella che riguarda i luoghi dove la protagonista del libro è cresciuta. Questo ci mette inevitabilmente in contatto con la storia di questo paese e con la sua geografia. Dopo avermi ricordato cose che sembravano sopite nella mia memoria circa la storia armena antica ed essermi sempre venuta a riprendere per parlare del presente, Sonia mi dà nuovamente uno spunto per fare un tuffo nel passato. Noi abbiamo visitato l'Armenia in funzione di trovare i luoghi dove poi far accadere le vicende del nostro romanzo. Così a Yerevan, che è una città che sorge su tre colline, dominata da un grande monumento che si chiama la Grande Madre Armena, un'enorme scultura di una donna appunto che rappresenta l'Armenia, abbiamo cercato i quartieri dove viveva Lena, la protagonista. Abbiamo individuato un quartiere fatto di palazzoni alti 20 piani, con un ascensore cigolante che portava in alto. Siamo entrati, ci siamo bussato, ci siamo fatti aprire, abbiamo preso questo ascensore cigolante, poi abbiamo bussato ad una porta, siamo entrati, abbiamo scelto l'appartamento dove Elena sarebbe vissuto, un posto angusto, povero, soffocante, con delle finestre però che vedevano il profilo maestoso del Monte Ararat, che è il simbolo dell'Armenia, la montagna che emoziona tutti, che ora è divisa in due, perché una parte è della Turchia e l'altra parte è dell'Armenia, mentre invece nell'Armenia antica, quella prima del 1923, il Monte Ararat faceva parte del territorio del paese. Il Monte Ararat, il biblico Monte Ararat. Eccolo un altro elemento a risvegliare i miei ricordi. Questa presenza sullo sfondo del nostro viaggio, con i suoi 5.137 metri e con le sue nevi perenni, è la montagna sacra armena, dove niente meno che l'Arca di Noè si arenò dopo il diluvio universale. È però anche il monte conteso con la vicina Turchia, e a questo proposito Sonia mi riporta alla storia recente. Gli armeni odiano i turchi perché i turchi sono responsabili del genocidio che ha sterminato la popolazione, e i turchi non vogliono sentire parlare del genocidio, rifiutano di ammetterlo, e quindi non si riesce a trovare un argomento per riappacificare questi due popoli. Il paese delle pietre urlanti, quello dell'Armenia. È proprio il caso di dirlo, urlanti di dolore per il tragico e triste passato, passato non troppo remoto come quello del genocidio. Ma sono anche altri i segni lasciati dalla storia. Un simbolo della cultura armena sono i kachkar, sono croci di pietra, sono delle grandi stele, sono piantate nella terra, sono molto antiche, perché risalgono al XI-XII secolo d.C., sono normalmente di tufo e sono intagliate con delle ghirlande di fiori, con delle viti, delle foglie, spesso narrano storie sacre, altre volte profane, e sono tipiche della cultura armena e si trovano un po' dappertutto, si trovano fuori dai monasteri, nei yavit, che sono degli spazi che precedono l'ingresso nella chiesa, e hanno un fascino assolutamente straordinario, e infatti il kachkar è il tesoro del nonno della protagonista del libro, che trova quando si costruisce la casa e dice sempre: questo è il mio tesoro, e sarà proprio quello che gli permetterà in un momento di difficoltà, con i soldi recuperati dalla vendita, riuscire a riprendersi indietro la nipotina che era stata venduta. Plus souvent trahi, le plus souvent violé, l'ennemi s'est toujours pressé à ses frontières, elle a pleuré son sort pourtant, s'est ressaisie. D'attaque meurtrière, en tremblement de terre, elle a vécu le pire, pauvre et tendre Arménie. Chi meglio di Aznavour, cantante di origini armene, poteva introdurci, per finire, alla musica armena, con quella sensibilità che vibra nelle sue corde vocali? Tutta la natura che riveste questi luoghi deve rimandare qualcosa della storia che li ha attraversati, e i suoni che si frangono da sempre sul monte Ararat non possono che essere suoni carichi di significato. Sonia mi parla anche del teatro dell'opera. C'è una grande cultura musicale, e il teatro dell'opera di Yerevan è l'unico luogo che anche durante i momenti di crisi era sempre illuminato, era sempre riscaldato, e il corpo di ballo danzava e l'orchestra suonava. La musica fa parte della sensibilità artistica armena. In ogni momento delle sue dolorose vicende ha accompagnato la vita di questo popolo. Ci sono alcuni strumenti come la zurna, il tar, il lud e molti altri che vengono ancora usati da musicisti e compositori contemporanei. Quanta malinconia c'è in questi suoni, quanto peso sull'anima per quello che è successo a questo popolo. Sonia ha concluso la sua visita e io con lei. Ripenso a tutta la storia che è passata di qui, a volte ritrovata nelle mie reminiscenze scolastiche, altre descritta dalla voce della mia compagna di viaggio. E rivedo i segni che ha lasciato. Antiche caverne, templi, chiese, monasteri e migliaia di originali kachkar. Le croci di pietra intagliate che risalgono a diversi periodi, dalla preistoria all'epoca ellenistica, dalla prima epoca cristiana a quella medievale. L'Armenia, quindi, non è solo la natura incredibile che ti accoglie e l'ospitalità della sua gente, come ha più volte ribadito Sonia, ma è anche un vero e proprio museo a cielo aperto. Imperdibile è l'atmosfera, sono questi paesaggi, sono le atmosfere dei paesaggi, le atmosfere della natura, delle cattedrali, dei monasteri a picco sulle gole profonde, piuttosto che arrampicate in cima a un cocuzzolo, l'ospitalità delle persone che in qualsiasi momento ti aprono la porta di casa, ti fanno entrare, hanno sempre tutti una storia da raccontarti, intanto ti portano tè, pasticcini, dolci, pizze, pani che tu non riuscirai mai a mangiare, e quindi è questa l'emozione di questo viaggio, sta nell'atmosfera che trovi nel contatto con la natura, con la loro religione, che come dicevamo è una religione antichissima. Ora Sonia Raule è in libreria con Come sabbia nel vento, scritto con Vasken Berberia e edito da Sperling & Kupfer. Musica.